la mano sulla spina della rosa. Non separa fiore da dolore e se resiste ad afferrarla si ferisce. Dentro si recide al posto del fiore. La mano che si posa non sa dove comincia il bianco. La disperazione della rosa non incontra mai spina. Del dolore non riconosce il fiore. La mà sobre la spina de la rosa no separa flor de dolor. I si resisteix i si aferra, es fereix per dins, es talla al lloc de la flor. La mà que s'atura no sap on comença el blanc. La desesperació de la rosa no troba mai espina. Del dolor no en reconeix la flor.